Il punto di Stefano Folli. È normale, benché spiacevole, che da noi un governo nasca nel caos, con trattative convulse e un braccio di ferro sui nomi dei ministri. Non è questo che incrina l'immagine di Renzi come innovatore. Piuttosto è il risultato finale che determinerà un primo giudizio sull'uomo e le sue strategie. L'impressione è che Renzi non ami la maggioranza con la quale è costretto a governare, leggi Alfano, e non ne faccia mistero. È un suo diritto, ma foriero di equivoci, perché al momento il nuovo premier non ha carte di ricambio, a meno di non appoggiarsi ancora di più a Berlusconi in Parlamento con tutti i rischi connessi. Secondo punto, la famosa squadra di governo. Renzi deve coniugare l'innovazione con l'esperienza e la qualità, e anche la continuità quando serve. Il peccato d'origine nel suo governo è il piccolo golpe contro Enrico Letta. Dovrà tenerne conto, evitando di presentare una lista di ministri che sia solo espressione di un gruppo di potere determinato a mettere radici. E soprattutto dovrà concentrarsi sulle riforme. È qui che sarà davvero giudicato.